Non ci siamo certo stupiti, e non pensiamo che vi siate stupiti neanche voi, di fronte al messaggio con cui il Papa, come se nulla fosse, è intervenuto una volta di più nelle nostre faccende profane, spiegando assegni a Martinazzoli che liberaldemocratici o no, se vogliono l'appoggio dei vescovi nella prossima difficile campagna elettorale, devono fare il santo piacere di mettersi in riga, cosa che entrambi peraltro si sono già dichiarati dispostissimi a fare. Il Papa è polacco, è un leader di statura e interessi internazionali, dicono, ma non per questo è disposto ad abbandonare il suo destino volto di casa. La sua organizzazione, nonostante tutto, continua ad avere la sede centrale qui in Italia. Per farla funzionare la Santa Sede ha bisogno più che mai della diuturna disponibilità e collaborazione del governo italiano. E vi dia che quel governo possa essere formato o diretto da forze e o persone che non dipendano in alcun modo dall'approvazione del patronato della Chiesa, per il vicario di Pietro deve essere una cosa alquanto disturbante. E visto che sono parecchie le forze politiche autocandidate sia ad accogliere l'eredità del compianto dal Papa Partito Unico dei Cattolici e bisognose quindi di qualche forma di investitura, dovremo aspettarci nell'immediato futuro più un incremento che un decremento delle pressioni clericali nei nostri problemi interni. Pazienza, non è la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima. No, più che altro ci siamo un po' divertiti in quanto curiosi di ideologia al passaggio con cui il Santo Padre ha messo in guardia dai rischi di separazione che sembrano emergere nel paese, rischi che, virgolette, vanno decisamente superati con un onesto atteggiamento di amore per il bene della propria nazione e un comportamento di rinnovata solidarietà. Anche qua, non è la prima volta che Wojtyła scende in campo a difesa dell'unità nazionale, della nostra unità nazionale, ma non l'aveva mai fatto in forma così solenne. E visto che non occorre essere degli studiosi di storia del Risorgimento per sapere che la forza che più accanitamente si è opposta al Risorgimento e ha più risolutamente condannato l'idea stessa di unità nazionale italiana è stata appunto la Chiesa, insomma, si potrebbe essere tentati di rimproverare le rete di Pio IX, che in fondo non appartiene a un passato più remoto di quello dei nostri bisnonni, gli si potrebbe rimproverare una certa pia disinvoltura nel cambiare opinione, per così dire. È vero che Bossi e i suoi rappresentano per qualsiasi partito moderato, laico, cattolico che sia, dei concorrenti temibili, ma chiedere a un'organizzazione che vanta una storia bimillenaria e per di più asserisce in varia forma la propria infallibilità di mantenere un punto di vista stabile su un problemino così importante, almeno per la bezzecola di un secolo, non dovrebbe essere una richiesta eccessiva. Ma la coerenza è un valore che è più facile chiedere agli altri che mantenere per sé. E un Papa che difende l'unità nazionale, magari in nome del liberalismo e della democrazia, che sono altri due valori che la Chiesa ha condannato a suo tempo con la massima energia, sta benissimo in questo nostro allegro paese. Pensateci bene, è un paese in cui, come è successo in questi ultimi giorni, chi desidera, non importa perché, la lunga permanenza in carica del governo presenta una mozione di sfiducia al medesimo, mentre chi invece desidera liberarsene al più presto cerca disperatamente di mettere insieme una risoluzione d'appoggio, peraltro senza riuscirci. Un paese in cui è stata presentata come una grande conquista democratica una riforma del sistema elettorale che priverà di ogni rappresentanza a metà circa dell'elettorato, a cui confronto dovremo rimpiangere la vecchia legge truffa come un modello irraggiungibile di correttezza formale. Un paese in cui le forze di sinistra affermano che la propria preoccupazione principale è quella per gli interessi degli industriali e per la tenuta della borsa. In cui vecchi arnesi fascisti danno lezioni non richieste di ossequio alla volontà popolare e al risultato delle urne. Un paese in cui si permette a un vecchio nemico del popolo come il noto Indro Montanelli, che per tutta la vita ha spiegato ai suoi lettori che il bene generale si identifica nella disponibilità dei lavoratori a sottomettersi senza fiatare alle esigenze del padronato, gli si permette di figurare come un fulgido esempio di indipendenza e di ribellione alle soperchierie dei padroni. A proposito di Montanelli, e concludo, tra tutti quei casi che vi ho citato, questo ultimo, se mi permettete, è forse quello che mi ha dato più fastidio sul piano personale. Non solo perché rappresenta un caso paradigmatico di incoerenza, figuriamoci, ma perché in qualche modo ho sentito non dico offesa, ma ho sentito un po' infastidita la mia pur scarsissima coscienza professionale dall'affermazione che hanno ripetuto infinite volte servi e zelatori vari secondo cui Montanelli oggi sarebbe il primo giornalista italiano. Ragazzi, il giornalismo è una tristissima professione notoriamente in Italia, ma forse vi si fa torto elevandone a campione un figuro del genere. Montanelli è abbastanza simpatico e ha un'invidiabile resistenza agli attacchi dell'aterosclerosi, ma e poi non sfoggia certo l'atteggiamento servile di tanti suoi colleghi meno noti, ma non si può fare un paradigma di indipendenza di uno che in 50 anni ha costantemente scambiato la libertà sua con quella degli altri. Uno che ha sempre rivendicato, per sé e per qualcun altro, per pochi suoi pari, un'autonomia di giudizio, una capacità di contrattazione che ha sempre negato alla massa dei poveri cristi qualunque. Ma in realtà il problema è proprio questo. Abbiamo già avuto occasione di notare in queste chiacchierate che la contraddizione tra libertà propria e quella altrui è l'unica vera antinomia di fondo di ogni sistema che voglia definirsi democratico. Anche il Papa che si preoccupa tanto della libertà della sua organizzazione e di quella dei suoi membri, non ha mai speso troppe parole per chi non ne fa parte. Ed è proprio su questo piano. È proprio su questo piano che un vecchio laico conclamato come Montanelli può dare tranquillamente la mano a Wojtyła, o un sedicente anticlericale come Pannella può ballare il trescone con i vari Formigoni e Casini, negli uni negli altri, nel Papa, né Wojtyła, né Pannella, né Formigoni, si sentono in alcun modo obbligati a rinunciare a un'opzione che non ha nulla a che fare con quello che in definitiva per loro è il problema vero, che è quello di chi comanda, loro, e di chi obbedisce, cioè noi. Come nella pazzia di Amleto, nella loro contraddizione c'è del metodo.